stesso. Eh sì, siamo proprio alla radio in tour. Allora, Luca è all'Ice Park e io sono a Piazza Municipio ad Aversa, a proprio godere la penultima giornata di questa festa natalizia. Allora, domani arriva la Befana, anzi stasera arriva la Befana, e mi pare che smontano tutte queste luci di Natale, proprio suggestivo qua con un grande albero di Natale in centro del piazzo. È una bella cosa, e mi dispiace molto che le cose finiscono per un altro 11 mesi, però stiamo facendo la festa qua, la festa Radio Tour, quindi non è tutto finito ancora. Saremo qua fino alle ore 21 stasera, quindi se vi trovate in zona venite a vedere. Io stavo facendo un po' di ricerca, chiedere un po' chi è questo Befana, che fa, perché noi non l'abbiamo in Irlanda, e la risposta che mi hanno dato è: dolci, se sei brava e se fai la cattiva magari ti portano un po' di carbone. E c'era una ragazza addirittura che ha detto: guarda, mi porterà il carbone, però non mi importa niente perché mi sono divertito così tanto. Quindi ragazzi, vi ricordo che domani la Befana proprio sarà qua presente in piazza Municipio per regolare piccoli doni e per scattare foto. E che poi non finisce tutto domani, domani c'è lo sport per bambini, quello del CSI, e pure una mostra in esposizione a proposito del fumetto. E poi, anche per concludere tutto, il 7, cioè domenica, ci sarà la fiera L'Antico di Piazza. E quindi molto da vedere qua ad Aversa per la Befana. Auguri a tutti quanti, questo è Fergal Kavanagh dando la linea dalla Radio dei Grandi Eventi, Radio Tour, allo studio. Radio Tour.